piano. Di Enrico Ruggeri. Il 1980 è un anno molto importante per il calcio italiano, al di là del fatto che esplode uno scandalo delle scommesse che porta anche alla retrocessione, per esempio, del Milan e della Lazio, è un po' uno spartiacque, anche se poi, come sappiamo, nulla verrà risolto perché ci saranno molti altri scandali negli anni a seguire. Ma soprattutto nel 1980 riaprono le frontiere che erano state chiuse nel 66 dopo la disfatta italiana con la Corea. Per 14 anni gli stranieri non potevano arrivare in Italia. E finalmente, o forse o senza finalmente, comunque gli stranieri arrivano in massa in Italia. Arriva Van der Korput, arriva Proasca, Kroll, Bredi, poi arrivano anche dei bidoni tipo lui Silvio alla Pistoiese, arrivano Juari, arriva Paolo Roberto Falcao che viene comprato dalla Roma. La Roma in realtà però un brasiliano ce l'aveva già, anche se non lo sapeva, perché nel 1980 lui non era ancora esploso, ma noi stiamo raccontando la storia di questo ragazzo quasi italiano per caso, capace di giocare da brasiliano con umiltà, con costanza, uno che ha conquistato i tifosi della sua squadra, ma anche quelli di tutta Italia, Bruno Conti. Siamo a Nettuno, costa laziale, 70 km da Roma, sulle spiagge di Nettuno nel 44 sbarcano gli americani che danno il colpo di grazia alle forze tedesche che avevano occupato Roma nel settembre precedente, e di questo sbarco rimane un segno molto tangibile, cioè dell'influenza americana, perché Nettuno è la città del baseball, la città più titolata d'Italia in questo sport tipicamente americano, e molti ragazzini della città si dividono tra baseball e calcio. Tu vai a Nettuno, li vedi bambini che giocano a baseball, così come adesso un po' meno andavi all'Aquila e vedevi bambini che giocavano a rugby, e c'è un ragazzino tra questi che è nato a Nettuno nel marzo del 55 che gioca bene sia a calcio che a baseball, anzi per il baseball ha un talento naturale, è un mancino. Degli osservatori americani vengono addirittura a dare un'occhiata a questo talento italiano, sperano di portarlo in America, dove probabilmente avrebbe anche avuto successo. Erano venuti da mio padre alcuni dirigenti dell'Università di Santa Monica per convincerlo a lasciarmi andare. Assicuravano che mi avrebbero fatto studiare e che inoltre sarei diventato un signor professionista del baseball. Ma mio padre non cedette. Secondo lui dovevamo restare poveri ma uniti. Meglio pane e frittata a casa che un figlio in America. Vedete che altra Italia oggi, che lo sport e lo spettacolo diventano una rivalsa sociale, ci sono i giocatori che vanno a vedere i figli giocare a pallone oppure stanno fuori dalla porta mentre i figli fanno il provino al talent. Qui è un'altra Italia, gente semplice, dove i figli sono una risorsa, dove la famiglia è tutto e quindi deve restare unita. Peraltro è una famiglia numerosa, perché Bruno Conti è il terzo di 7 figli, 3 maschi e 4 femmine, ognuno deve contribuire, così Bruno, invece che andare a giocare a baseball in America, fa il garzone, consegna le bombole in giro per la città, tutti lo conoscono, lui si fa notare perché è un ragazzo educato, sorridente, che ha solo una passione in testa, quella per il calcio. E il primo provino alla Roma Bruno Conti lo fa davanti a Elenio Herrera, che però lo scarta perché è piccolo, però in quegli anni a Nettuno e a Latina ci sono degli ottimi settori giovanili. Peraltro lui a Latina conosce un altro grande giocatore, Vincenzo D'Amico, che però poi diventerà un rivale perché approderà dalla parte laziale della città. Poi nel 74, il 10 febbraio, lui è alla Roma e esordisce in Serie A, Roma-Torino. In panchina c'è Lidolm, che non ha ancora legato il suo nome alla società giallorossa. Conti è giovanissimo, ha 19 anni, Lidolm intanto va al Milan e lui, Conti, viene mandato al Genoa per farsi le ossa. Gioca una buona stagione, torna a Roma e poi viene di nuovo mandato a Genova. E qui la seconda volta lui non la prende bene, lui vorrebbe rimanere a Roma, comincia a innervosirsi per questo suo continuo viaggiare tra Roma e Genova. Ero il pendolare, il precario. Mia moglie era stanca di traslochi, ero l'ala con la valigia, sempre pronto ad andarmene, a partire. Per noi, ragazzi di Nettuno, è difficile affermarsi nella capitale. Beh, era un altro calcio, un'altra Italia, un altro mondo. A 20 anni lui aveva già messo su famiglia con la stessa donna con la quale è sposato ancora oggi, Laura. Non insegue contratti milionari, non insegue continui trasferimenti, vuole fare il suo dovere, vuole tornare a casa da eroe della sua città, nella squadra per la quale lui aveva sempre tifato fin da bambino. I suoi ricordi, che abbiamo tratto peraltro dal libro di Gabriella Greison, Essere Bruno Conti, ci dipingono il ritratto di un calciatore che ha sempre la maglia numero 7, la maglia dell'ala destra. Che belli i tempi in cui si giocava con le maglie da 1 a 11, non c'erano l'84, il 96, il 53. Comunque, lui gioca sulla fascia e sa crossare molto bene, il 7 che crossa per il 9 che a sua volta è marcato dal 5. Insomma, fino a quel momento è così. Lidl comincia a reinventare il calcio, comincia a creare giocatori universali che sappiano muoversi tutti assieme e anche incarnare più ruoli, e Conti ascolta con attenzione i consigli del barone, perché Lidl si è accorto che lui non solo ha un gran fiato, ma sa anche giocare bene, sa far scomparire, come si suol dire, il pallone tra le gambe, come fanno i brasiliani. Nel 79 Lidl torna a Roma e rimarrà 5 stagioni, e la valigia di Bruno Conti viene messa definitivamente nell'armadio, perché lui entrerà a far parte del gruppo della Roma e ci rimarrà per sempre. Il falco e il gabbiano. Abbiamo già parlato del carattere innovatore di Lidl, della ventata di novità che aveva portato al campionato italiano, trovando a Roma un terreno fertile anche grazie alla presidenza di Dino Viola, che era accusato di essere un accentratore, ma in realtà è uno che aveva dedicato tutto se stesso alla Roma con l'intento di trasformarla in una squadra moderna, in una società moderna. E quando parliamo di Viola parliamo anche di un duello a distanza con Boniperti e con la Juventus, e con tutto quello che la Juventus porta dietro. Per esempio, stagione 1981, la Juve vince il campionato, la Roma arriva a 2 punti, ma c'è un episodio chiave di quel campionato, un gol annullato al romanista Turone nello scontro diretto Roma-Juventus, un gol che avrebbe decretato il sorpasso della Roma e probabilmente lo scudetto della Roma, e allora si disse che la Juve aveva vinto lo scudetto per questione di centimetri. Lidl intanto sta lavorando per inserire il modulo a zona, la cosa ovviamente non è semplice in Italia, però comincia a dare i suoi frutti, perché c'è Falcao, c'è Di Bartolomei che gioca a centrocampo e poi arretrerà libero, c'è Ancelotti, e poi sulle ali ci sono Bruno Conti e Scarnecchia, e in mezzo Pruzzo, pronto a ricevere i palloni scudellati dai due. Con lui non era possibile pensare diversamente rispetto a quello che ci proponeva di fare in campo. Ogni mossa, ogni soluzione tattica era studiata nel dettaglio. Niente era lasciato al caso. Io dovevo fare quello che mi diceva, dovevo essere me stesso, e con lui ce la facevo. Vincevamo pure e avevamo sempre l'adrenalina. Giocare a quei livelli con un allenatore così fu una delle fortune più grandi della mia vita. Eh sì, anche perché lui ha delle licenze particolari. È vero che deve inserirsi nel modulo a zona di Lidl, ma però Lidl lo lascia anche agire come meglio crede, quindi in tutti i casi, insomma, ci sono i balletti di Conti, le finte, le controfinte, il doppio passo, il tunnel all'avversario. Ci sono ancora, diciamo, dei retaggi del calcio di un tempo. Lui è un brasiliano, Berzot lo convoca in nazionale, lui sta costruendo il gruppo che dovrà andare ai mondiali di Spagna dell'82, mondiali che partono male per l'Italia, intanto perché Berzot lascia a casa Pruzzo e soprattutto Beccalossi. E io poi, quando ho incontrato Berzato, gliel'ho chiesto: ma perché hai lasciato a casa Beccalossi? E lui mi ha risposto: perché io il mio fantasista ce l'avevo già, era Bruno Conti. E il mondiale comincia male anche perché si parte con uno 0-0 con la Polonia. Conti, gol, bellissimo gol di Conti, è il primo gol del campionato del mondo per gli italiani. Conti al 18° minuto. Eh sì, Italia-Perù, seconda partita del girone, e Conti segna di destra, anche se lui è un mancino. Poi il Perù pareggerà, finirà 1-1, ma comunque quella non sarà l'unica prodezza che Conti farà vedere al pubblico di tutto il mondo. L'Italia in qualche modo passa al girone di qualificazione. Dopo lo 0-0 con la Polonia c'è un pareggio col Perù e poi c'è un pareggio con il Camerun, di cui si parlerà molto. È un pareggio probabilmente anche un po' frutto, diciamo, di una trattativa sotterranea. E però tutto questo porta l'Italia a un gironcino a tre, perché quelli erano i primi mondiali a 24 squadre. Quindi passavano le prime due, c'era un girone a tre e l'Italia si trova in questo girone con l'Argentina e il Brasile. L'Argentina è campione del mondo con Maradona e il Brasile di Zico, Junior e Socrates. Quindi tutti pensano che l'Italia sia spacciata. E invece è qui che l'Italia trova l'orgoglio per provare al mondo di non essere così debole. Parte il silenzio stampa, la squadra si compatta e anche Conti diventa protagonista, mostrando le sue doti ai sudamericani. Paolo Rossi e Sabrina Conti jugando nel circolo centrale, la tira sobre el sector izquierdo, Tardelli, se mete Antonioni, sta solo Paolo Rossi, vino para Tardelli, entró en la carrera, tiró, gol! Italiano Tardelli, ahí devuelve la pelota Bruno Conti, el arco libre, Bruno Conti se le engancha, pidió el pasón largo, qué momento, tiró Cabrini, gol! Gol de Italia, Cabrini! Eh sì, Tardelli e Cabrini segnano i due gol con i quali l'Italia vince 2-1 con l'Argentina di Maradona. In tutte e due le azioni lo spunto vincente è di Bruno Conti. Insomma, l'Italia ha cambiato registro e a questo punto però c'è da affrontare il Brasile. Rilancio di Zoppa, è finita, l'Italia è semifinalista, ha battuto il Brasile in una partita esaltante, la più bella, che cancella ogni dubbio sulla efficienza di questa nostra formazione. Eh sì, perché intanto il Brasile aveva battuto l'Argentina 3-1, quindi all'Italia non bastava il pareggio con i brasiliani, e c'è la mitica partita 3-2, tre volte segna l'Italia, due volte il Brasile la raggiunge, ma non la terza. I tre gol di Paolo Rossi con Bruno Conti a dettare assist e contropiedi. Insomma, l'Italia diventa improvvisamente, da sconfitta annunciata, alla più probabile pretendente alla vittoria finale. E su Conti c'è da dire che su di lui nasce un soprannome, Marazzico. Maradò è un acronimo tra Maradona e Zico, e insomma sta diventando il protagonista, o comunque uno dei grandi protagonisti di quello storico mondiale. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Bruno Conti, un calciatore eclettico, veloce, dotato di capacità di dribbling, padrone incontrastato della fascia destra del campo, che indossa la maglia numero 7, quella che prima di lui avevano indossato Meroni, Garrincha, Best, poi Causio, che Conti ha sostituito in nazionale. Ci sono stati anni in cui le due grandi maglie erano la 10 e la 7. Conti è di Nettuno, ma è legato alla maglia giallorossa della Roma, è la sua seconda pelle. Nell'80-81 la Roma ha perso uno scudetto, insomma, che avrebbe dovuto e potuto vincere grazie a una questione di centimetri su un gol annullato nel solito Roma-Juventus. Qui siamo arrivati alle semifinali, perché l'Italia, stiamo parlando dei mondiali dell'82, ha eliminato l'Argentina e il Brasile, deve giocare contro la Polonia. Cabrini, viene davanti Conti, Rossi, gol, gol, stop, raddoppio di Rossi con splendida azione di Conti. L'Italia ha battuto la Polonia per 2-0 ed è finalista del campionato del mondo. È la quarta volta nella storia del calcio che la squadra italiana conquista una finale ai campionati del mondo. Eh sì, questo era Nando Martellini che racconta questa azione. Cabrini, Conti, Rossi. Conti mette al centro un pallone sul quale, diranno i giornalisti, c'era scritto spingere. Rossi si inginocchia e lo deposita in rete. 2-0 alla Polonia e l'Italia arriva in finale e si gioca con la rivale storica, la Germania di Joop Derwall. La notte dell'11 luglio 1982. Cross di Altobelli, Conti, è rigore, rigore, calcio di rigore. C'è Briegel che ha contrastato Conti tendendolo a terra. Calcio di rigore in favore dell'Italia. Va a terra Briegel, ma Gentile riesce a liberare. Conti, contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio. Va in avanti Conti. Traversone, Altobelli. E sono 3, e sono 3. Altobelli, terzo gol di Altobelli. E sì, Conti è uno dei grandi protagonisti di quella sera. Prima subisce il fallo in area di Briegel che assegna il calcio di rigore che però Cabrini tirerà a lato. Anche se Conti si infortuna in quell'azione perché Briegel è un gigante e gli piomba addosso come un treno, lui manda via i barellieri, naturalmente non vuole uscire e il suo carattere da combattente uscirà poi nel secondo tempo quando correrà per tutta la fascia prima di dare la palla peraltro di destro ad Altobelli che scarterà Schumacher e segnerà con Conti inginocchiato, stremato. Insomma, Conti ha conquistato il mondo. È un'emozione bella perché io penso che un mondiale ti fa conoscere un po' in tutto il mondo, perché ancora oggi ricevo tante lettere dalla Germania, dalla Polonia, da tutte le parti del mondo, perché ha lasciato un segno. È stato un mondiale per me importante perché ho disputato veramente dalla prima partita un grandissimo mondiale, al di là poi che siamo riusciti a vincerlo, ma anche sotto l'aspetto di quello che io come del resto tutta la squadra ha saputo fare, per cui è chiaro che già noi a livello di club arrivare in nazionale è una grande soddisfazione, ma arrivare a vincere un mondiale ti rendi conto che poi dove vai la gente ti conosce e questo è molto bello. Conti torna a casa da vincitore, da eroe, e la sua soddisfazione era chiusa in queste semplici parole. Da quando lavorava come garzone o come barista, insomma, ha fatto molta strada. Adesso c'è solo un traguardo da raggiungere, però è un traguardo molto importante. Lui vuole entrare nella storia della sua città, vuole conquistare lo scudetto con la maglia giallorossa. E la primavera del 1983 è una stagione che a Roma non dimenticheranno mai. Io per anni, tornando a Roma, ho visto nei bar la formazione della Roma attaccata dietro al bancone e in molti bar è uno scudetto che diventa storico da tramandare a tutti. È lo scudetto del presidente Viola innanzitutto, che ha aspettato 4 anni per raggiungere quell'obiettivo. È lo scudetto di Lidl, che ha saputo costruire una grande squadra con dietro Nela, Maldera, Viervud e poi Di Bartolomei, poi Falcao, Proasca, Ancelotti e poi Conti sulla fascia e poi Pruzzo in mezzo. Ma è anche la Roma di Tancredi, di Odoacre Chierico, di Turone, di Righetti, di Nappi, di Scarnè, che è un gruppo di giocatori che diventa egemone di Roma, i nuovi re di Roma. Per raccontare lo scudetto vado a sensazioni e a immagini. La prima cosa che mi viene in mente è la città. Si respirava un'aria magica, un'atmosfera da sogno. Per tutta la settimana precedente all'ultima partita, i tifosi ci fermavano per strada e ci ringraziavano per il tricolore. Vincere a Roma dopo tanti anni di egemonia juventina fu un'impresa storica. È un periodo incredibile per Bruno Conti, che in meno di un anno raggiunge i due obiettivi più importanti per la carriera di un calciatore: campione del mondo con la nazionale, campione d'Italia con la Roma, e peraltro con una squadra che non vinceva gli scudetti a decine. L'ultimo era stato il primo, peraltro, quello durante la guerra. Quindi insomma un campionato sofferto e uno scudetto atteso decenni. Poi, siccome in quegli anni solo chi vinceva il campionato andava in Coppa dei Campioni, arriva la Coppa dei Campioni e la Roma arriva in finale. E la finale si gioca a Roma e c'è il Liverpool. Bruno Conti, Grobelaar, vedete, è un bel tipo, sorride. Naturalmente sono atteggiamenti così un pochino guasconeschi, perché naturalmente vedete che ama lo show. Gesto di scongiuro contro Bruno Conti da parte del portiere, Grobelaar. Sbaglia Bruno Conti e la situazione è ancora di perfetta parità. Ha sbagliato e male Conti. Eh sì, perché il Liverpool aveva sbagliato il primo rigore con un certo Nicol. Dopodiché però c'è questo portiere Grobelaar che ipnotizza Conti e tutta la Roma con gesti scherzosi da guasconi irritanti. Conti sbaglia e poi ci sarà la traversa scheggiata da Ciccio Graziani che pone fine ai sogni di vittoria della Roma. Un colpo d'ala verso il basso, insomma, perdere in casa una Coppa dei Campioni ai rigori è una delusione terribile. La città però non si dimentica delle cavalcate di Conti, festeggia comunque i suoi campioni, insomma, è una coppa comunque storica. In una partita col Torino, Conti, con un dito rotto, si era presentato in campo lo stesso, anestetizzato con un'iniezione, aveva anche segnato uno dei gol più belli, un tiro al volo che aveva lasciato il portiere Terraneo senza parole. L'importante è che la Roma abbia vinto. Darei un piede per questo. La rete? Ho visto il lancio di Bartolomei e ho colpito al volo mirando l'angolo alto. Sapevo che così sarebbe stato un gol imparabile. La carriera di Bruno Conti si conclude nel 91, non ci saranno altri scudetti, c'è qualche Coppa Italia, nient'altro. Però Conti lascia il calcio giocato da campione. Viene organizzata una partita, si gioca il 23 maggio del 91, la sera dopo che la Roma aveva perso la finale di Coppa UEFA con l'Inter. Bene, sugli spalti ci sono 80.000 persone, più di quante ce ne fossero per la finale della sera prima. È una partita nella quale ci sono tutti i grandi campioni che hanno condiviso i grandi risultati raggiunti da Conti, e tra tutti quelli intervistati quella sera naturalmente c'è anche Enzo Berzot. Conti è stato quel qualcosa in più come estra fantasia di cui la nazionale aveva bisogno, quando il rendimento di Causio è sceso un pochettino, abbiamo trovato un giocatore di eccezionale estra fantasia, ha unito a una grande capacità di sofferenza in campo e un grande rendimento anche sul piano atletico, anche se le sue dimensioni muscolari erano limitate, ma un giocatore di grande carattere, di grande temperamento e di grande umanità soprattutto. E i suoi tifosi lo chiamano il sindaco di Roma, un ragazzo che doveva diventare una stella del baseball e che è invece entrato nel cuore dei suoi tifosi e che si è fatto conoscere però in tutto il mondo, sempre a trovare il momento giusto poi per passare la palla verso il centro. Perfino Pelé, cioè il più grande di tutti, lo ha definito il miglior calciatore del mondiale di Spagna. Poi, spenti i riflettori, si torna a casa, a Nettuno. Sono nato a Nettuno e lì continuerò a vivere fino alla fine dei miei giorni. In macchina faccio questa strada da anni per andare a Trigoria e poi tornare a casa. Il mio paese è il più bello del mondo. Non lo cambierei con nessun altro. Ho scelto di vivere lì perché la famiglia ne trae notevoli vantaggi. La città è troppo caotica per i miei gusti. La sera preferisco starmene con la mia gente. Conti va tutti i giorni a Trigoria, perché è diventato il responsabile del settore giovanile della Roma. Lui lavora con i giovani, con i bambini che indossano le maglie della Roma, e forse sta cercando un nuovo Bruno Conti, a parte che anche i suoi figli hanno avuto un'ottima carriera da calciatori. E Conti però è stato particolare, un uomo con il cuore italiano e i piedi da brasiliano. Abbiamo raccontato una storia di colpi d'ala, abbiamo raccontato una bella favola di un riscatto sociale, ma soprattutto di un calciatore che si impone in Italia giocando non solo da italiano, appunto, ma anche da brasiliano. Noi vi aspettiamo con altre storie, segnalateci se anche voi conoscete qualcosa che volete che io racconti, scriveteci via mail al Falco il Gabbiano, o scrivete a me nei miei Facebook, Twitter, Instagram e nei social della trasmissione. Insomma, se mi cercate, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.